chi è questa voce? Chi è? Frank! E chi è? Chi è? Indossi! Non ti ho capito! Dove sei? Senti, non è portato, non sto scendendo! Ciao Luca, buonasera! Ehi, capo! Sto utilizzando volante nella tua Luca! Bene, mi ascolti? Vabbè, sto scendo liscio, non è un lineare attaccato! Ma siamo troppo vicini ancora, magari! Ma dico, ma va bene! A Puglia! Stavo dicendo, Luca, me l'avevi dato due, ma ti volevo dire, ma erano già regolate le stazionarie, sì? Sì, sì, già pronte. Cappa, già vabbè, no, ero come dovevo da buon regolare, no, invece li ha regolate tutti e due. Vabbè, poi se vedi un po', se c'è da regolare ancora, vedi tu. Ma io non li ho misurate, ma già penso che vada bene, dai. Direzione ottava da parte mia, incrocio per quasi per Platamona, dai. A pescare sei andato? No, negativo, sto scendendo, il portatore devo fare la commissione e poi risalire. Vieni a KK, chiama pure quando vuoi. Se ci sono vicino quasi all'incrocio tra Platamona e portatore. Andiamo bene, andiamo. Qua ne sta scendendo l'aria. Qua mancherà poco. Già ne ha fatto prima. Affanculo, devo piano sta qua. Luca, ancora mi ascolti? Sì, io. Da parte mia ingresso Porto Torres, Ma lì piovendo sta? No, ancora no, c'è il sole. E parite, no, che effetti, Luca, oi. Luca, sono arrivato, dai, ci sentiamo più tardi se coincide, ok, ciao. Ciao Fra, a dopo. Ciao Luca, ciao. Attenzione, Porto Torres della parte mia, località via Sassari, Ciao Luca. Piovendo sta ancora. Segnale per te 920 Radio 5 pulita di Uscio la Grande, Luca. Eia, gappa. Chiave. Aiuto, mandalo qui, entrate. Chiave. Sveglia, sente mala. Allontanarsi dalla linea gialla.

cazzo, basta, posso minuto. Allora tu vai sul B e ti dà la tua frequenza, capito? Poi cerchi la frequenza che devi mettere e lo lasci lì. Allora io un orfeo ce l'ho una parte, c'è una M, un trattino, poi c'è un orfeo, ok. A destra c'ho A e B, c'ho la tosina in alto a destra. Poi c'ho A M, vabbè, A, B, C. Vabbè, non lo so, Natali, provvedi tu. Gianni, è diverso dal tuo, fregatela. È diverso dal tuo, già. No, te l'ho dato, sì. È un ammisso, Gianni, deve essere dal tuo, perché l'ho avuto oggi da 40. Viterbo Milano, cambio! Minui. E chi è questo che sta uscendo male? Avanti il cambio, tutto scambiato. Si è offeso, non entra più. Sta uscendo male veramente, però. Comunque, ciao Natalino. Vai, cuoco, male. Mimì. Ma va dietro là. Mi adesso che c'è Claudio, fatelo spiegare, che lui lo conosce. No, così a... Se viene lui un giorno me lo guarda, bene, se no io a toccare non posso fare casino, no. Comunque ciao Claudio. Ho toccato nudo. Ho detto chiama, vabbè, questi giorni sono incagliato, questo andavo a casa proprio, se sono sempre vai e vieni, ma una di queste mattine, quando vuoi, già te lo faccio capire io con la radio. Va bene. Come mi ascolti in radio, Oca? Che vende il gioco. È buona come radio, no? Grande, buona, buonissima. E lo sciure sto usando. Hai ottimo microfono quello. Carta, avanti, già. Eia. Lo sciure è buono, però ho notato che tra quello di Frank e quello di Tonino c'è un abisso, e la voce che lui parla troppo in fretta e risulta troppo alto a volte. Adesso sta anche andando bene, ma a volte risulta troppo alto, non si capisce cosa dice. Invece quello di Frank è bello chiaro. E lui è con cuore, ma ne grida. Io non sto gridando, sono a metà volume. Se aumento è così, 1, 2, 3, prova. Questo mi avrà di. Ehi, a che si pare con un clip, devi usare con i denti. Quella di Franco della stazione, cazzo, è bellissima la radio, è proprio chiara, però è anche un bel forte, però questo qui è ancora più forte. Ah, e glielo sento a Franco a volte, questa è molto meglio sicuramente. Va bene, dai, sto facendo cose, sono entrato a salutarvi. Ciao ragazzi. Ok, ciao Claudio, dopo X. Ciao. Sì, bisogna chiedere a quell'amico se ne ha altri, quindi più. Ti piace? Ma io lo regolerei diversamente, la mia voce sarebbe diversa con quel microfono, sicuramente, perché tu ce l'hai già potente la voce, e più la alzi e parli in fretta, quindi capito. La mia sarebbe tranquilla. Io c'ho l'ugola turbo. bella forte, ma c'è un effetto che presenta micidiale, molto bella. Io così sono a metà, come volume di Mikey King. Lasciala così che va bene. Mi pare Don Diego, te lo ricorda Don Diego, Cla? Don Diego della Vega. Ma Natalino c'è, Natali. E lo fa poco fa? Ma gente già fa in VHF. Ho 86 anni va. Te lo ricordi già Flaime? A voglia. Ma quello era quello del negozio degli animali. A salutare in bocca il radioamatore, ma io non l'avevo mai sentito, ma con Giambico era radioamatore. Va bene. Te lo ricordi che lo sprimero? Certo me lo ricordo, sì, ma quello è sparito la circolazione. Ma Flaime è proprio ai tempi che modulava Falcone. Io non sapevo neanche che era rimasto, è entrato, c'è un dato, mi ha riconosciuto dalla voce, ha detto, ma vabbè, dai continuate, sto facendo cosa. Scusa, Flavio, non è quello che c'aveva in Città Grattacielo Vicchio, negozio istituto di bellezza? C'era ancora, abita a Grattacielo. C'era ancora? Certo che sì. Non l'ho neanche più sentito io, Ti ripeto, io secoli che non sentivo. Mi ha detto tu sei Claudio Salviero, ma detto metti in Walker. Ha detto sì, io sono Flyman, aiuto. Ma siamo veri morto. No, ancora no, c'ho 86 anni, ma ancora sono morto. Vabbè. La carità, non va bene. E vabbè. E tu allora Gianni, ti vuoi fare un sto scherzando, non ne ho di microfono, ne ho un 4, una addirittura di riserva, senza attaccare, no, non ne voglio altri. Ho fatto male a vendermi quello là, quello, il Saletta, che me l'hanno chiesto 50 volte e l'ho dato, ma ho fatto male perché quello lì si adattava proprio al garage, adesso ci ho messo l'MB più 4, va bene lo stesso, ma non è a livello del Saletta. Ce l'ho più l'MB più 4, però questo è superiore, ecco perché mi piace più questo. Feci bene col garage, Gianni, ti ho sentito. Sì, è l'MB più 4, vabbè, l'ho modificato, gli ho fatto il ponticello, due ponticelli. Gli ho fatto la modifica, però già va bene, ma non gli ho cambiato nulla, non gli ho cambiato manco la capsula, che ho detto che c'è una capsula di Tamer più 3 ci rimo qui c'è qua. Scusa, sto usando adesso l'M più 4 della ZG, com'è Claudio? Più chiaro. Sì, ma la radio, claro, non c'ha la potenza dell'altra, però senti com'è più chiara la radio. Sì, è chiara, ma quella là a me piace di più, è più forte, un bel più forte. E a chi tu sei guerriero? No, a me piace la radio potente. No, il tuo col Galaxy, ti ho sentito altre volte, esce molto bene, bella amplificata, con la tonalità giusta, va bene. Quindi va bene così allora. Ciuriflu. Ciao Pichiche. Minurriconi. Gargame, Ma cos'è, a pescare in barca si è andato? Ah, cosa? La pescare in barca? Un amico che stavo dando una mano a pulirla. Ci ho comprato la barca con un mio amico e lo sta aiutando. Un bel barcone, c'ha la cucina, il bagno, tutto, la doccia, bella. Cioè da ripristinare, abbiamo pulito tutto il passaggio. Passi con i piedi, ecco, per andare in punta, lì, siccome è legno quello, no? È tutto nero, poi dopo il vapor. Abbiamo ripristinato l'impianto elettrico, adesso dobbiamo lucidare tutte le strutture in acciaio, come le vuoi chiamare, con questo prodotto, la spugnetta. E ce n'è ancora, e deve mettere il flatting anche. Alla patente nautica? Sì. Ciao Gadare. Per il ci sono entrato a salutare. Sì, stanco, un po' bruciato mi sono qua. Era tutto nudo. Tutto bene, dai. Per il momento. Poteva andare meglio, ma va bene così, dai. Sì, a tutti i dì. L'importante è che ci siamo. Dai, continuate. Piacere ascoltarci. Che sto facendo a cosa. Dai, buon ascolto allora, buon pomeriggio. Avanti, Natalino, ci sei. Chi è rimasto? Io, Natalino, la tua magnata, sì, senz'altro. E lui Luca. Tieni, aspetta un attimo, sto dicendo una cosa. Comunque tutto a posto, dai, te lo piano si va avanti. Meglio così. Ah, Luca. Sì, Natalino. Sa che da poco mi ha fatto di nuovo quel difetto, quel televisore là. Se ho oscurato l'immagine, se sentivo la voce. Poi l'ho staccato, la spina, poi l'ho rimessa e poi funziona bene. Qualche cortocircuito, qualche contatto falso? No. C'era Luca, ce l'aveva, ma non gliel'ha fatto. Magari il vecchio, da quanto ce l'hai? Cazzo vecchio, ha 4 anni, Che marca è? Non mi ricordo adesso, 40 pollici. È strano, o c'è qualche elettrico che sta andando a farsi benedire, Tony. Non lo so. Sai, l'elettronica, ecco, sai com'è, no? È un casino. Vabbè. Se va, lascia andare e poi si vedrà. Ma invece quello che ho 60 pollici in cucina, quello gioca bene. Quello è più nuovo. Capo. Ne ho cambiato uno da poco, Tonino. Le leggi ce l'ho buttato via perché l'aveva già aggiustato Luca una volta e si spegneva. Poi lo accendevi e sparivano tutte le programmazioni del canale, dovevi riprogrammarlo ogni volta. L'ultima volta sono andato a riprogrammarlo, non riprogrammava più. Allora ho detto, ascolta, fidati le luci. Così mi è successo un televisore a me che ho comprato da una tizia lì alle Punti, vicino dove abita Giulio Dollaro, 40 euro. Ogni volta che lo spegnevo dovevo riprogrammare quando lo riaccendevo. Ma non più due balle, l'ho regalato a 5. Oia, e l'avrei riportato con da capo. No. Vabbè, quello che c'avevo era l'LG che addirittura non l'avevo manco comprato. L'avevo fatto dai punti dell'ASO, quando davano i punti all'ASO che c'era ancora, come si chiama, quell'altro che c'era prima, sulla BD1, sulla chilometro, là, Unita, c'era Unita ancora, e l'avevo fatto quei punti dell'ASO, quello lì, ma sai quanto si vedeva bene, era LG. Io facevo i punti della Orga, poi invece ha fallito, c'era Mialucci, avevo un bel punti, e vabbè, lì avevo fatto la pentola a vapore, un accappatoio che c'ho ancora, eppure non so cosa volevo fare, c'avevo un bel punti, perché io la macchina dell'azienda metteva la Erga, capito? E quindi a voglia di punti, e poi invece ha fallito la marcia. E vabbè, ma tu non ne facevi più, erano dell'azienda, io l'avevo chiesto se me li dava socio i punti, potesse potevo prendere, metto di sì, poi ha scoperto mio cognato che me li stavo prendendo e me l'ha fatti dare a lui, se l'ha presi lui. No, ma io andavo a testa, mi insegnavo i punti e basta, poi me ne andavo, la macchina mi davo solo io, non c'era problema, tutto qua, avanti lui. Casino ragazzi, un casino uia. Proprio Luca, io ho ordinato un gruppo di droga. Mi hanno fottuto la batteria, i cavetti, la batteria, guardato, è uguale a quello che ho comprato nuova, però non so dove cacchio si attacca, non so, con il pannello davanti, un casino. Cioè, non ho capito, ti hanno fottuto i cavetti, cioè? Io ho ordinato un gruppo elettrogeno, da 8000, ma 8 kW e mezzo, e praticamente mi è arrivata la scatola mezzo rotta, io purtroppo con la fede l'ho ritirato e automaticamente mancava la batteria, il libro di istruzioni e i cavetti. E lo tenevano rubato? Allora si lì ha senz'altro la batteria, una batteria piccola di 7, 12 volte e 7 ampere, capito? E quindi per un motorino va bene. E poi niente, l'ho comprato uguale, ma non so dove cavolo si attacca, ho tolto il pannello, non c'è neanche un cavetto, nulla. Infatti la batteria serve per mettere in moto il gruppo. Potete mettere in moto sia a chiave che scorre la batteria, giustamente, oppure a cordicella. Che strano, però. Vabbè, se hai accorto di questo furto, dovevi sentire dove l'hai comprato, scusa. Ho telefonato, non risponde nessuno. Una truffa. Esatto, perché poi ho guardato dove ero nato, a San Giuliano Milanese, ho guardato il numero 84 su internet, risulta addirittura un'agenzia immobiliare. Casino, sì, vabbè, comunque già. Bisogna vedere l'otto lì. Serve un'occhiata, un po'. Quanto l'hai pagato? 350 euro. Cosa devi fare? Ho fatto solo attacco con la campagna, sta con la Venel e mi ha dato il gruppo. Ah ecco, è chiuso il gruppo. Tata. E lui ce l'ha fatto. Certo, ho già fatto le prese maschio e femmina, le P30. Figa, sei quanto benzina consuma? Non lo so, il pieno è 15 litri, poi non lo so, infatti volevo provarlo. Quanti kilowatt è? 8? 8 kilowatt e mezzo. Ah, ho capito. Anche cosa mi ha detto, l'ha pagato poco, poi quello io guarda che si passa se mi paga un bel. Tony, e non c'è qualche cavo per attaccare la batteria? Forse quei cavi se li hanno staccati loro, ci saranno i punti dove erano attaccati. No, no, non c'è niente già. Io ho tolto il pannello, ho guardato bene bene, nulla. Che strano. Scusa, questa cosa se deve funzionare la batteria devi attaccare da qualche parte, no? Per qualche punto ci sarà. Stavo pensando di smontare di nuovo il pannello, seguire dove va la chiave, i fili e a vedere se si può attaccare lì. Bisognerebbe ci fosse qualcuno che se ne intende di queste cose qua, tipo Mariani che li aggiusta, queste cose qua, che se ne intenda ti dica dove metterla. Il strano è la cosa più strana, che io cerco su internet il libretto di istruzioni e non me lo dà. Certo, dove ha collegato la batteria al gruppo, dico la marca, tutto quanto, mi dà quel gruppo, mi fa vedere il filmino, ma non mi fa vedere la batteria dove va attaccata. C'è la batteria, lo metto in moto con la chiave. Ma non si metterà esterna? La batteria esterna, certo, va sotto il gruppo. Vabbè, ma un punto dove collegarla ci deve essere per forza. C'è, tutto male che va, dico, per quei cavetti per le macchine, quelli che si usano per mettere in moto le macchine, e te lo stisciano uno di quelli, li tagli la pinza e li lo salti da una parte. Gianni, non è il problema dei cavetti, quelli ce li ho, non c'è problema. Il problema è dove l'attacco il gruppo per mettere in moto a chiave? È quello che ti ho capito. via oppure glielo porti a Mariano e dice: ascolti, io ho comprato questo gruppo elettorico, però non so dove ci mette la batteria. Forse una fotografia dopo il pannello, vado a Mariani, faccio questa 50 kg, ve lo posso. L'unica è quella, Vittorio, uno che conosce, bisogna vedere se non è una truffa questo gruppo, che magari non funziona nemmeno, è tutto fatto all'imbreccio. No, è perfetto, è bello, guarda, c'è il motore, c'è tutto, anche la cordice la mette in moto. Infatti sono costretto, se metto l'olio domani mi sa la benzina e trovo a mattina di strada. E come fa a provare se non c'è il punto dove attaccare? Mette in moto anche con la cordice la tipo cespugliatore. Allora basta, la batteria non ce ne vuole allora. Tu stai dicendo per mettere in moto a chiave? Ho predisposto a avere anche il video, io ho anche la chiave. Giri e metti in moto, ho capito. Però purtroppo la chiave e la batteria non c'è gatta, io l'ho comprata nuova. Quando sono aperti, infatti a me mi è arrivato il mangime dei pappagalli che costa 50 euro. Prima costava 40, adesso costa 45 per le sue disposizioni, si vede 50 euro. E mi è arrivato con sfondato. Questa qui mi viene, ragazzi, tutta la cosa che discendeva tipo farina. Che cos'è questa cosa? Farina? Perché sta perdendo? Cazzo sta perdendo? E allora è fasciato. L'avete dato qualche colpo, perché non è possibile, c'è il contenitore in plastica dura. Io ho detto no, io non lo ritiro, io ho fatto male a ritirare il gruppo. Ho detto no, mi dispiace. Prima mi ha sillato per ritirare il gruppo, perché ho detto no, la vita viene nel corriere e non c'ero. Quello mi ha chiamato, vado, devo ritirare, se no ti denuncio qua e là, ti faccio pagare spese, qualcun'altro. Poi che l'ho ritirato, me l'ha chiamato già e non mi risponde più. Brutto mezzo di me già. Qualche manfrina c'è sotto sicuramente, magari era difettoso, nel senso che magari mancavano pezzi e tirato da dove uscire. Io l'ho ritirato perché qua a Sassari non si trova il mangime, lo devo ordinare da internet e quindi l'ho dovuto prendere perché stavo per finire l'altro, non sapevo come fare, capito? L'ho preso lo stesso, non è che ne ha preso tantissimo, però un po' l'ha perso, capito? Poi mi ha tutto sporcato addosso, è tipo farina, quindi ha l'odore della vaniglia. Luca! Scusate un attimo, mi devo spostare da qua, vado a prendermi da mangiare, dai, arrivo su. Va bene, ok, d'accordo, ho quel X allora, ho buono quel segreto. Vabbè, già, pazienza, io sono quasi un mese che ho il cacchio di gruppo, lo voglio provare però. Non sai cos'è, che tirando la cordicella puoi fare qualche strappo al braccio, cosa, no? Bisogna tirarla velocemente, quindi ti può causare degli strappi e le cose, è meglio che abbi la chiave, giri e lo fai fatica. Infatti, era predisposto proprio a mettere in moto la chiave, infatti nel filmato c'è il mio gruppo che ci sono tre tipi, e sono tutti uguali, tranne che allora, il primo tipo c'è una presa industriale 220 e una presa industriale 380. Poi c'è quello che ha due prese 220 e una presa 380, il mio è tre prese 220 e una 380. Però il mio è più alto, quello da 8 kW e mezzo. Ma magari non lo vedi più il punto sotto, magari non l'hai visto più sicuramente. Ma l'hai smontato. Allora. Dovrebbe essere all'interruttore della chiave o giù di lì l'attacco del cavo, perché è lì che dà la corrente per mettere in moto. Anzi, deve andare al motorino, se c'è un motorino d'avviamento, qualcosa del genere. Infatti devo seguire quei fili, smontare tutto, seguirli se per il motorino d'avviamento, capito? Solo così potrei fare. Vabbè. Un nervoso che. Vabbè, piano piano tu già riesci a capire com'è. Se la roba funziona, prima o poi già lo trovi il posto. Cazzo, no, mi sembra impossibile che non ci sia un posto dove collegarlo. O si l'hanno invidiato, Rubì? No, ci manca, pure non so dove l'ho collegato, forse mi ha smontato qualche scatola, qualche cosa, non lo so. È che sono sempre incasinato. Da una parte all'altra mi chiamano adesso, mi chiamano a sinistra, parente, gli deve darlo. Adesso, giusto appunto, venerdì comprerò la mia figlia, domenica quello di mia sorella, ma ne vittoria mi giurita, non ci vengo. Sono troppo impegnato, incasinato. Oggi a comprare questo, a comprare quell'altro, mi ha chiamato il mio comare, mi dà un passaggio, aiuto. E quindi, già, sono sempre incasinato. Io sono lo stesso. Sempre da una cosa all'altra, adesso devo andare a fare la visita, speriamo che non veniamo a fare visita, perché qua non è possibile, sono tutti i giorni girando, oggi sono andato anche all'ATP a fare una commissione che mi hanno chiesto, e quindi anche oggi mi hanno impegnato la giornata. A luna sono tornato, di a luna meno un quarto, la verità. Fate tempo in tempo, mi avrò il telegiornale a fare il pranzo, perché molte volte il telegiornale me lo salto. Ieri sono tornato alle 2 meno 10 dal centro di abiti. Vabbè, io tra cosa e l'altra, insomma, infatti ho deciso, mi sa che spengo il baracchino, vai il baracchino tra me, spengo il telefono e mi faccio le cose mie, perché io non voglio risolvere questo problema qua. Ho fatto tutto quanto un lavoro per avere il gruppo per casa, tu pensa, il capo che arriva dall'Enel arriva direttamente dentro casa mia, che è ricevuto l'elettricità dal padrone e ha fatto questo lavoro qua, capo unipolare, il doppio isolamento. Fatto il buco, ho dato la salvavita differenziale. Io cosa ho fatto? Sono andato col dottore giù a cancello, ho staccato la corrente, sono arrivato a casa, dove c'è entrato, ho tagliato il cavo, l'ho sfidato, ho aperto il quadretto elettrico, l'ho sfidato, quello che ho sfidato l'ho rientrato con l'altro cavo ancora, praticamente attaccato alla salvavita differenziale, e fuori con una bella presa femmina della P30. Poi, quello che ho tagliato il cavo, che là viene dalla corrente dell'Enel, ho messo una scatoletta esterna con un differenziale 25 A, l'ingresso sopra, l'uscita con un maschio sempre della P30. Ho collegato quello che ho collegato io, è perfetto, ho di nuovo la tensione dell'Enel. Mentre poi, quando io voglio usare il gruppo, ho già fatto la pronuncia, maschio e femmina, metto il maschio lì e il maschio della femmina che c'è lì, solamente due maschi sempre della P30, stacco quella dell'Enel e stacco il differenziale giustamente e attacco direttamente quella del gruppo, capito? E usufruisco 8 kW e mezzo di potenza in tutta la casa. Potrei attaccare contemporaneamente scaldabagno, forno, asciugabene, lavatrice, tutto, capito? Ecco perché l'ho fatto. Ma non puoi mettere un commutatore da quello dell'Enel al gruppo elettrogeno? Ci può stare mettere un commutatore per stare a staccare ogni volta, a riattaccare? No, meglio così, è più pulito il lavoro, Gianni, è molto più pulito, perché ho un termico 25 A soltanto per la corrente dell'Enel, che stacco e non ho più corrente, non c'è pericolo. Ho capito, va. Per la tua sicurezza, è come staccare una presa e non c'è più corrente, sì. Vabbè, vedi tu adesso, mettiti a fartelo questo lavoro e magari riesci anche a toglierne il piede, però devi dare un po' di tempo, non devi fare altre cose, sennò non ve la va valuta. E oggi mi ero al quadrato, così sono passato in banca, poi sono andato, mi sono fatto, già che c'ero lì, la spesa delle dicche, non ci vado mai perché non mi piacciono. Guarda, le buste che ti danno sono una cagata. Mi si è rotta la busta in strada, cazzo, me ne farà tutto la lato, qua. Quelle buste che danno fanno schifo già, per carità. Meglio portarsi le buste, quelle grosse, che io ne ho parecchie, ne ho, e quindi uso quelle lì, quelle robuste che vengono già, pagano 49 centesimi, almeno metto tutto dentro. Io ce le avevo, le ho date tutte a quella persona là, quando è andata via, per metterci la roba, così almeno. Dice, non c'ho scatto, aspetta, te la do io, così se la reghi, ti sta la reghi. Sono piccole e fine. E poi sono andato dai cinesi e mi sono comprato quel rasoio per pulirti i peli del naso e cose, perché mi c'era rotto, e me ne ho comprato uno che è veramente bello, elettrico, ho pagato 2 euro, ma funziona veramente bene, c'ha 2 ricambi, uno che lo fa a pittine come il rasoio normale, no? E l'altro che è fino e rimane tipo perno, così. e ti serve per tagliarti i peli delle orecchie, del naso, eccetera. Bellino. No, io per le orecchie me le tolgo con la pinzetta e guardo lo spiccio, e le chiamo pinci. No, con la pinzetta un euro le tuni, mamma mia. No, che non sento nulla, sono abituato. Come ti riprendi? No, io no, io uso quell'affare per il rado, sì, crescono, ma da una rasatura all'altra del barba non mi crescono tanto, capito? Quindi mi rifaccio sempre, ogni volta che faccio la barba mi rifaccio tutti. Sì, una volta mi sono passeggiato e con lo spicchio guardavo e la pinzetta, si è fermato un uomo e si è avanzato guardando e mi sono girato, ok, a sua guarda vai. Anche le sopracciglia ti fai? No, quello vado dall'estetista. Dall'estetista? Capa. No. Io me le faccio io. Quando crescono troppo prendo il rasoio, lo metto alto e le abbasso. Aspetta, quando si allungano passo il pettine e me le taglio con la formicina, ok, perfetto, oppure me le fa il barbiere. Ma quando fate le sopracciglia in giusta misura, perché un po' diventano incasinate, vado quello che c'è vicino a quello vendere tutto molto, a Bretagnita, un po' prima c'è quello che ti fa le sopracciglia, tutte queste cose qua, tre euro, una cazzata. No, no, io non sono mai andato a vestire. Sì, ho capito, dove va Manuela a farci i capelli? Sarà quello lì. Tutte ragazze buone. Ehi, ehi, ma fanno anche permanenti, roba del genere. Scappa. Sì, sì, dove va Manuela, Quando Manuela è qua, se li fa lì i capelli, anche le tinture, tutte queste cose qua, se li fa lì. Sono roba che non mi ricordo, lì ci va anche Monica. No, io non li conosco per nome, io l'ho aspettata fuori, quando l'ho accompagnata, poi sono andata a riprendere, l'ho aspettata fuori ed è uscita subito, quindi dentro non sono entrato. E mi ha detto lì, io andavo prima a Corte Santa Maria, se mi hanno dato in giro, e ha detto guarda che mi si mette a 3 euro, aiuto. Cavagava. E via, e vabbè. Io adesso devo andare, e fra un po', a 8 meno 10, dai, mi alzo, e porto il cane, e... devo fare cosa? Ecco, e io ho già la cena pronta, ho fatto un bel brodo di pollo stamattina, perfetto. Non mi va bene di mangiare, io sono come niente di nulla, che mi ha sgridato il dottore, lui mi ha sgridato, io avevo la glicemia stamattina 125, che non l'ho mai avuta così bassa, 125, poi 95, poi dopo pranzo 102. Ma io ce l'ho a livello di muri sempre, ce l'ho bassa 135, 130, 128, ce l'ho bene. Se mangi il gelato ti voglio venire. No, se mangi il gelato ti voglio dire, ce l'ho per bassa ma non me la misuro più. Ah, non te la misuri? Perché hai paura che sia troppo alta, stata in picco. Però hanno ragione anche loro, loro lo fanno per il nostro bene, mi hanno detto non esageri, se non dai, guardi che questi sbalzi lì non è che ce l'ha sempre alta, ce l'ha quasi sempre bella, ma poi c'ha degli sbalzi a volte la mattina, quindi bisogna regolare, perché a me la notte sai cosa mi succede, mangio, poi vado a vedere il televisore, mi viene donna a fame, allora mi prendo un pacco di cracker, qualche cosa a stuzzico, e quindi mi aumenta, e loro non glielo ho detto, però così mi viene fame e mangio qualche altra cosa, capito? Non fa. Purtroppo questo mare, guarda, ti provoca fame, io guarda, sto cercando di fare tutto per stare a regime, ma sto male, mi sento male se mangio poco. Io che metto il microfono adesso, voi troppo pesante a me, ma non mi dà fastidio. Vabbè, già, comunque, devo dire. Io cerco di mangiare sempre leggero la notte perché ero in furico, mi ero notato mangiando pochissimo leggero, la glicemia è bassa e la mattina quando mi faccio la glicemia prima di fare colazione sempre bassa, ho dominato perché mangiava frutta e crepa pelle, un bel piatto di pasta, quello panino, no, niente, tutto eliminato. E a mezzogiorno posso mangiare, se me ne piace, non me la fatti nulla, se mazza la glicemia. E poi la sera con calma mangio leggero e vedo che va bene. Ma leggero cosa? Un'insalata ti mangi? Un'insalata con la mela, oppure, non so, un pezzo. mette in pollo arroso e fatto sulla piastra tenerente, capito? È una vera. Anche io, guarda, sto cercando di... mi mangio una mozzarella con i pomodori, così faccio una caprese con un po' di origano, appena appena di olio e via, mezzo panino svuotato dalla mollica, perché non so come mangiare il primo io primo non ne mangio, tutta la settimana, l'ho mangiato, lo sai quando? Domenica, poi non ne tocco più, perché domenica Marco non è potuto venire a pranzo perché è andato con la ragazza a mangiarsi il sushi e quindi è venuto la sera e la roba della mattina l'abbiamo consumata la sera, quindi non ne ho mangiato per 3 giorni di pasta, se no mi toccava mangiare la pastrina di Natalizia e la giulampada, ma è un peccato, è un vero peccato buttarci la roba adesso. Lo so, io decido che domenica mi faccio una pasta al forno, ne faccio 2 tettine, 2 frizze e una me la bagno. No, io l'ho fatta, quando è? 2 domeniche fa mi pare, 2 domeniche fa l'ho fatta. E ho trovato Tony, che è molto comodo, non devi farlo tu. Da Italy vendono le mozzarelle già tritate, tu le devi spargi sopra, ne ho comprato 2 buste, il capo è venuta buona veramente. Io quella l'ho trovata da Lidl e poi non l'ho più avuto. Dov'è questo che stai scendo tu? Da Italy, dove è vicino a casa, dove compro io, dove c'è il bar, eccetera. Ho capito, allora sotto vengo lì a prenderlo. Perché mi piace quando faccio la pizza in casa, capito? Che la sono fatta sopra. Vabbè, io le la faccio anche a fettine, la mozzarella normale, però se capita quella lì è molto più comoda, no? Le la spargi bene, ti viene bene metterla, dai, anche nella pasta al forno, una passata di quella, una passata di formaggio e via. E cappa, andrà bene già. Adesso mi sono per portare il centro giornale, guardo e mi scaldo un po' di carote, qualche patata rimasta e pollo. Niente, oggi mi ha fatto la ministeria col brodo, guarda, spettacolare, non ce n'è. Doveva venire mio fratello che è 1 o 2 giorni che è sempre qui con me, la famiglia, la dottore, oggi mi ha chiamato e purtroppo è una settimana devo stare a casa, mi ha trovato la bronchite, non scherzo, vabbè, quindi niente, ormai l'avevo cucinata, però l'ho mangiato, oggi è stasera, buonanotte, quindi, e domani ci mangiamo qualche pasta asciutta, mi faccio, oppure mi faccio la caprese anch'io, perché mozzarella ne ho, mozzarella con pomodori, perché se pomodori mi dispiace, li compro, molte volte non le tocco, non le mangio, si guarda, devo buttare via, ma era per buttare via, mi dispiace, allora mangio pomodori, faccio la caprese, con origano e via dicendo, un filo di olio. Anche io, pensate che ci sia l'olio buono, che dia sapore buono qui, cioè va bene. Ma tuo fratello ha sposato, Cappa, è separato pure, a 20 anni o di più. Io mi ricordo che stava sotto di te, che era con i baffi un po' bassottini. Sì. Adesso sembra papà lazzare. Barbone. Purtroppo era padroni adesso è grassone, c'ha la faccia più grossa della mia. Si nota molto perché lui è più basso. Lui da quando l'hanno operato poi mangia sempre, mollato un po' la sigaretta e mangia sempre di più. E buonanotte a Sicchio. Invece a me non me l'ha fatto la sigaretta. Il mio collega come ha mollato la sigaretta è ingrassato come più un po', che era la Nuragno. Ha ingrassato come un porco, ma di faccia pure lì. Ha mollato la sigaretta e è ingrassato di brutto, ma fumava, era sempre un gravanetti, sempre con la sigaretta in bocca. Anch'io l'ho mollato la sigaretta, ho 8 anni già, non sono ingrassato, sono sempre lo stesso. Lo so, però dice che fa ingrassare quando tutto lì la sigaretta, che ti dai, io invece che praticamente mangiare mi mangiavo una caramella, quando sentivo voglia di fumare mi mangiavo una caramella. Io ho mollato di tutto, dal fermento, per il cuore, ho scoperto per Dio che ho avuto, e quindi pensavo che era una sigaretta, invece non era una sigaretta, comunque non mi interessa, l'ho mollata e basta. Per il colpo di campanello mi ha fatto spaventare, ho tentato per mollarla, perché prima ho tentato 3-4 volte di mollare la sigaretta e non ci riuscivo. È stato proprio il periodo cruciale che mi è venuto a scoperto per Dio, che mi ha fatto l'ospedale e ho mollato una settimana fino alla sigaretta, prima che mi ricoverava la capito. E quindi niente, è stata l'unica soluzione, sigaretta e l'ho mollata. E mi trovo anche meglio come respiro, come cammino, te l'ho fatto. È tutta un'altra cosa. No, no, la sigaretta, tu quanti soldi ha buttato? Già, per carità. Soldi e la salute. Perché poi i polmoni, per carità, mi piace a voi, poi. 10 anni ci vuole, ho fatto 13, Tonino, non educa più. Anche io ho fatto la stessa cosa. Io andavo a pescare e me ne fumavo anche 2 pacchetti. Prima ho cominciato con 5, poi con 10, poi con 15, poi 20 e poi anche quasi 2 pacchetti ne fumavo, capito? Quindi ho detto adesso bisogna dargli un taglio. Un giorno ho preso, andavo a pescare lì dove c'è il bar della torretta, lì siamo andati a macchina, no, se vado le compro, me ne ha acceso una, poi ho preso il pacchetto, ho trattato dalla lì, non ha più toccato, nemmeno una e niente. E io fumavo quasi 2 pacchetti al giorno, amica. Tu pensa che io sono uscito più di una volta, più di mezzanotte, a comprare le sigarette alla macchinetta. Ma com'è tutto mollato, poi ti dirò da quando ho mollato la sigaretta, già dopo mese e mezzo, uno che fumava un fiacco di sigaretta la lontanava, buttati. E se uno si avvicinava a parlare con me e aveva appena fumato, io capivo subito dall'odore come parlava, avviati. Niente, mi allontanava perché faceva schifo. Io ho avuto la sigaretta adesso. E a pensare tutta la roba impregnata e cosa, manco male, in casa mia dove fumo non c'è, non c'è nulla, neanche in macchina, perché con questa macchina non ho mai fumato, anche quando avevo la Focus non ho mai fumato, anche lì. Anche io, mai. Ma è fatto 13, Tony, è fatto 13, come l'ho fatto anch'io. Il catarro la mattina, ui, guarda che dai. Io fumavo Camel, non fumavo sigarette, usavano i burro e Camel. Ma io ho messo. E quindi la notte quando respiravo sembrava che avevo i gattini, vai, pacca di dai, non puoi mangiare la sigaretta, no? Ma infatti. Poi se ci pensi bene è un atto che fai strano, gatto, blu, non c'ha nessun significato, ti metti il fumo dentro, lo butti fuori, perché è cosa che va fatti male, vai. Lo so, purtroppo. Un vizio che se uno si mette in mezzo lo Stato per fatele comprare, la mazza di vari a mezza barata, vabbè, meno male che ho mollato, io voglio che tutti mollassero, vedi che donna fumato, aprire un paio di fini, roghi, ma la pazzina, che ti fa zimare, le dita gialle a fuori fumare, per carità. Le donne sono peggio degli uomini, perché le donne sono dal nervoso, fumano, capito? Ne fumano una dopo l'altra. Anche mia moglie fumava, dopo come è stata incinta nel primo bambino, l'ha mollata e non l'ha più toccata la sigaretta. La cosa più bella del mondo è mollare la sigaretta. Io purtroppo ho iniziato a fumare quando sono partito a militare, quindi ho anni fa la mollata. Troppe sigarette, basta. E guai se non c'è vero, cioè quando vedevo che nel pacchetto ce n'erano 2 o 3 soltanto, la notte sky doveva dire, come faccio caffè, potevo fumare un casino, uscivo di notte a fare le sigarette, ma dove pensi? No. Ma è che sono meglio già, di tasca di tutto. Vabbè, intanto non è che fossi risolto perché le spendi in un'altra maniera, però ce l'ho fatto. Mi sento meglio di respirazione, di tutto, vai. Prima l'affanno, dite che tasca, altri cari, ui, invece adesso sto meglio. Che fa bene la salute, la prima fuglia. Vabbè Gianni, dai, quasi meno 5, io chiudo e me ne vado dentro, guardo la TV dentro e mi preparo a scaldare di quello che è rimasto. E così ceno. Ci sentiamo alle prossime, da grazie del consiglio, alle prossime. Ciao. Ciao Tony, dai, buona visione telegiornale. Ci sentiamo, anche adesso vado, li preparo la roba a casa da mangiare e così mi guardo il telegiornale anche e poi lo porto giù. Ciao. Ok, ciao. Allora attento guardi, si migliora scoppia. Allora attento guardi uno, si migliora scoppia. Attento guardi uno, si migliora scoppia. Attento guardi uno, si migliora scoppia. Allora attento guardi uno, si migliora scoppia. Hola, breco, si me llevas copia.